pezze proprio. Sì, in effetti è anche quella è una tradizione nostrana, quella di buttare giù le cose dalle finestre, cose. Sperando che ci sia sotto qualcuno. Esatto. Dico dico par sì, dico dico parla, non tu sei via, non to che se non là. Il fa se pari sì, il papà se parla, come le vodo so questi vede gara. Qua fede in sombrero, le qui se viene a plas, il son cheval se promena per chi fa. Questa moustache en cron, il serre de gomita, il ferre vendu le cipo della rambla. On dit tout pas que son grand père était corsaire, qui faisait la traite de noir à Buenos Aires. Guarda, c'è scritto anche che ogni anno sopravvivono 7 milioni di bambini sotto i 5 anni in più rispetto al 1990. La mortalità infantile è molto diminuita, questo è importante. Non ne parla mai nessuno. E invece la mortalità senile? Quella forse anche quella no, perché siamo troppi, siamo diventati 8 miliardi sul pianeta, per cui non muore più nessuno. Ma sai cosa faccio? Adesso che mi sono arrivate le foto del blog della puntata della vigilia. Quella splendida puntata in giro per la città. Adesso pubblico il blog finalmente, visto che ho le foto, giusto? Mentre invece oggi siamo così rintanati come a prepararci dei lupi a produrre la 123esima puntata del Coxo, l'ultima che vede la co-conduzione di Massimiliano Bocco Briarava. No, ma tornerai. Non lo so, no, io non è che voglio tornare. Sei piaciuto tantissimo a mia madre. Io non è che voglio tornare, io voglio proprio prendere il tuo posto. Perché il mio? Perché di sì, perché così è l'arrivismo. No, non preferisci il posto un del 2016 della arrivista, direttore della radio, ma dai, sì, anche. Sì, scusami, con questa vibrazione della voce, dove vuoi che arrivi io? Comunque lo prendo come un complimento. No, certo che è un complimento. Sì, ma effettivamente cioè come riesci tu a dire delle cose a caso? è veramente fatto un sacco di training con Pasquini. Sì, sì. Sono diventata un po' W anch'io in questi anni. Però devo dire che da quando non c'è mi sto esprimendo di più, poi potendomi avvalere di un cotanto botto di co-conduttore, uh-huh. Della sua stabilità, della sua voce tonante che subito ti radica il terreno, il diaframma, tutte uh-huh. Io posso permettermi di compenseggiare in maniera più... Vedi che quest'anno ci sono stati dei passaggi di potere pacifici e democratici in contesti molto diversi come il Burkina Faso, la Tanzania, la Birmania e l'Argentina. Sì, però non è che devi farmi stavo facendo la bolla, il chewing gum, il botto bolla. E anche, appunto, dicevamo che addirittura il Mozambico mm-hmm. ha depenalizzato le relazioni omosessuali. Ah, quindi è un buon passo avanti. Capisci? Dovremmo essere anche noi un po' mozambichesi. Ma noi non abbiamo il matrimonio. Qua non c'è ancora. No, siamo rimasti l'unico paese nell'Unione Europea a non avere la legalizzazione delle unioni civili. Però il nostro Renzi stamattina ha detto: il 2016 partirà all'insegna dei diritti civili. Ah, bene. Certo, quindi... è da 3 anni che lo dice, però va bene, uguale, dai. Beh, insomma, non so, chissà chi ci sta ascoltando. Allora, volevo anche dire che il 10% della popolazione mondiale vive con $1.50 al giorno. Il quanto della popolazione? 18? No. Il 10% della popolazione mondiale significa circa 1 miliardo di persone. No, 1 miliardo no, però 800 milioni di persone. Sa che qualche tempo fa era molto di più. È arrivato qualcuno. Chi sarà? Mettiamo un brano e scopriamo. Con sta pioggia e con sto vento, okay. Chi è che bussa sto convento? C'est tous les mêmes, macho méchu, monde nouveau est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Convento allora? Uno con un monopattino. Ah, interessante. Sì, sì, bellissimo. Ma forse allora ho infatti io ti lascio con lui e io me ne vado via in monopattino. Come? Sì. No. Non ho mai guidato un monopattino. Vuoi almeno l'ultimo dell'anno farmi provare l'ebbrezza del monopattino? Io pensate che l'ho guidato anche in doppietta. Comunque dice di essere un ipnotizzatore. Ah, allora sì, è proprio quello che conosco, è un vecchio amico del coxo. Vecchio amico del coxo. Sì, sono io, sono il vecchio amico del coxo. Ciao vecchio amico del coxo, che bello riaverti qui durante le feste, perché già 2 anni fa insieme a Krisha Bobo Pigamago... Sì, tentai la mia prima ipnosi in diretta. Sì, poi tra me e Krisha Bobo Pigamago vennero i capelli blu e ah, è vero. Quello venne. Però in realtà qui arriviamo con un lavoro anche più strutturato per questo 2015 che ci aiuterà anche a... forse a rendere ancora migliore quello che è stato il miglior anno di sempre. Sì, perché se nel 2010 non fosse stata presa nessuna iniziativa per il rallentamento del fenomeno del riscaldamento globale, nel 2100 la temperatura della Terra avrebbe potuto essere 4 gradi più alta. E invece è soltanto più alta di 3,6 gradi. Oh, mamma mia, ma che bravoni che siamo stati, eh? Complimenti per il risultato, insomma. È un successo, sono capito? Io vi ho portato appunto questo brano, questa nuova esplorazione dell'ipnosi, a mio modo, anzi non è proprio dell'ipnosi, non si può dire che sia un'ipnosi, sapete benissimo che l'ipnosi non è questo tipo di lavoro, un lavoro molto più serio. Ma quale tipo sarà questo tipo che proprio al 123° coxo spaziale, eh? Non lo so, io mi sento già ipnotizzato da questa vai avanti. Da questa esperienza, sì, vai sì. Avanti. No, in realtà appunto per avere una vera ipnosi in teoria c'è bisogno anche di una presenza fisica, quindi in un certo senso quest- questa mia proposta è una sorta di proposta per uscire dai canoni, diciamo così, classici della radio e vedere se si può fare un racconto in un altro modo e chiedere una partecipazione anche diversa da parte del pubblico che è a casa e anche del pubblico che è qui in radio. Quindi nel senso che l'opzione è ipnotizzare il coxo. E sì, esatto, l'hai proprio detto benissimo. Ipnotizzati il coxo. Esatto, è proprio questa sensazione fisica interna, l'ipnotizzatore lavora su queste sensazioni fisiche interne che nel momento in cui effettivamente non si è in presenza dell'ipnotizzatore, in un certo senso possiamo anche noi immaginare, quindi autosuggestionarsi, auto-ipnotizzarci, insomma. E per la notte di Capodanno mi sembra la scelta migliore, ipnotizzatevi tutti e non pensateci più e risvegliatevi nel 2016 avendo passato questa notte di Capodanno. Riposandovi finalmente. Comunque il numero dei bambini che non vanno a scuola è calato da 100 milioni nel 2000 a 57 milioni. Questo è un buon dato. Capito? Ecco perché è l'anno migliore di sempre. Possiamo procedere con l'ipnosi. Ecco, forse un giorno l'ipnosi sarà anche studiata a scuola, perché adesso esiste in Francia, esistono dei diplomi di ipnotizzatore. Quindi l'ipnosi non è soltanto questa cosa un po' scherzosa. Di cui... Rigolotto! Capito? Oggi siamo tutti un po' francesi. Nel 2015 siamo Je suis Paris, siamo tutti un po' francesi. E comunque dal 2000 i casi di morbillo si sono ridotti di oltre 2/3, risparmiando così più di 17 milioni di vite. Possiamo procedere. Quindi Rigolò mi piace tantissimo. Rigolò è una parola bellissima in francese. Sappi che questo l'ho sentito su Rai 3, che parole tipo parlare e mangiare sono dei francesismi, quindi vengono da francesi, quindi noi continuamente parliamo francese. Sì, vabbè, una su mille. Parlare parole. E mangiare, però, che per l'italiano sono insomma, due verbi fondamentali. Diciamo perché in latino come si dice parlare e mangiare? Non lo so. Non lo so, sarebbe una bellissima... Hablare, forse, hablare. Una bellissima... No, dovremmo... Vai, ricerca! No, andiamo a indagare come si dice in latino parlare. Intanto, quindi, io continuo su questa cosa dell'ipnosi, di cui se ne parla molto in questo momento, ed è utilizzato soprattutto come strumento creativo. Al di là dell'utilizzo che si ha dell'ipnosi come strumento terapeutico. Visto che per andare con gli strumenti della coscienza ci vuole troppo studio, troppo impegno, andiamo con la subcoscienza. Che interessante! Disputazio. Disputazio? Eh sì. Noi stiamo disputaziando? Sì, stiamo disputaziando sul microfono. Ne sto accorgendo molto. Ma io direi che il tempo radiofonico impone uno stacco, quindi mettiamo una musichina. Io per questa notte di Capodanno avevo una proposta musicale, come dire, in qualche modo monografica, se possibile. E poi ci predisponiamo, dopo aver ascoltato questo secondo brano della monografia che è cominciato con il brano precedente. Sì. E quando torniamo ci prepariamo io e te A essere sottoposti. Questa coxizzazione. Ma dobbiamo rimanere vestiti? Ho sentito una zip che calava poco fa, però insomma fa freddino, ma non lo so. Adesso sdraiati in piedi? Capiamo. Adesso andiamo col secondo brano. Tu abbi fiducia. Bene, la fiducia nel brano. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi?

e siccome si parlava di Francia prima, dunque insomma il monografico di stasera, che è l'ultimo giorno dell'anno, del miglior anno di sempre, è dedicato al miglior artista di sempre, almeno dal mio punto di vista. Che dicevi ti ha fatto piangere. Che mi ha fatto piangere, ho visto il suo concerto qualche giorno fa, ho pianto più che per Mary Poppins. Dove l'hai visto il suo concerto? L'ho visto su YouTube, c'era a disposizione, è Stromae, di cui abbiamo appena sentito Tous les Mêmes. E visto che prima si parlava di Francia, no? Si parlava della lingua francese, e allora niente, secondo me stasera si ascolta Stromae perché sia il più bel monografico del 2015. Sì, no, è un genio assoluto, fa una musica ballabilissima, parla di temi sociali importanti e di conseguenza io mi sono innamorato di Stromae, lo ammetto pubblicamente, peccato che si sia sposato. Ah sì? Sì. Perché c'era... Quando? Pochi giorni fa, proprio così. Mi ha piantato in asso e è andato a sposarsi con un'altra. Con un'altra? Capito? No! Con cui sembra che abbiano anche un progetto, anzi forse hanno già realizzato questo progetto di casa di moda. Casa di moda? Penso che disegnino e producano degli abiti. E stanno in Francia? Dove? Sono francesi, esatto. Io non ho molte informazioni. Lui è belga. Sì. Esatto, vedi, io conosco un po' la sua musica perché in Francia è molto conosciuta e si sente, anzi, anche i miei figli, 12 anni, 8 anni, adorano Stromae. È un po' il personaggio, il cantante che è amato da tutti. Però io non è che abbia molte informazioni, anzi, se perché vuoi fa questo strano mix tra una musica da ballare, la musica africana, visto che lui è di origini africane, e una musica sociale, da cantautorato, per cui proprio vi prego, non vi prego, però se avete voglia andate a scoprire chi è Stromae, se non lo conoscete già. Ma ha debuttato già nel 2015? Ma no, assolutamente, è già da molti anni che c'è, però in Italia, sai, la lingua, sai, in francese. Bisogna conoscere un po' il francese perché i testi sono molto, molto interessanti. Capito. E dunque procediamo adesso con questa ipnosi collettiva. Sì, che a me viene sempre in mente la frangia quando penso all'ipnosi collettiva, perché 2 anni fa Alessandro è venuto in veste francese, parlava tutto in francese. Com'è, cioè, la veste francese? L'ipnotizzazione francese, perché lui, Alessandro, vive in Francia. Hai capito, allora è tutto contestualizzato oggi. Siamo completamente il miglior coxo di sempre. Il mio coxo di sempre, caro. Grande coerenza. Bene, quindi adesso, a proposito, francofonia, mi hanno detto che è un bellissimo film di Sokurov. Bisognerebbe andare a vedere Francofonia, che adesso non sale. Sì, sì, l'hanno detto anche a me, che è un bellissimo film sul significato dell'arte nella nostra vita, che c'è sempre, no? Adesso che io comincio a fare il docente al liceo, no? E questi ragazzetti mi diranno: ma a che cosa serve l'arte? Allora, questo tema ce lo teniamo per l'ultima slot del nostro programma. Va bene. L'ultima slot della 123esima puntata del Coxo. L'ultima slot speciale del 2015. Il Coxo speciale! E intanto invece dobbiamo, stringendo i tempi, riprendere le fila del discorso con il nostro ipnotizzatore Superman, nonché super mega mono ospite dell'ultima puntata del Coxo 2015. Sì, riprendiamo. Alessandro, ipnotizzatore Franceschelli. Io sono pronto. Ok. Preparatevi. Come si preparano i nostri ascoltatori? No, io e te siamo le cavie su cui, per tramite dei cui corpi, questa cosa potrà anche essere condivisa. Defluire verso l'universo mondo. Perfetto, voi siete i tramiti, i mediatori, ok? Un mediatore maschio e una mediatrice femmina. Siamo pronti, vai! Così? Sì, è già partito. Zitto! Ok, zitta! Bene, qualsiasi cosa tu stia facendo, ora lo sai. Sai che non ne puoi più. È ora di prendere un po' di tempo anche per te. manda i bambini a giocare in terrazza, manda i genitori a giocare in cucina e siediti. Dimentica tutto. I giorni passati a cercare di avere un aspetto più seducente, le notti passate a contare denaro. È finita, ormai non c'è più niente da fare. Tu sei come sei e nelle tasche hai quello che hai. Spegni la luce, spegni il televisore, spegni il tuo cervello. È finita. È finita. È finita. Smettila. Smettila. Smettila. Smetti di lottare. Abbandonati. Abbandonati. Rilassa i tuoi muscoli. Chiudi gli occhi. Rilassa la tua pelle. Come faccio a rilassare la mia pelle? Abbi fede. Rilassa i tuoi sensi. E lasciati scivolare. Smetti di resistere alla gravità. Abbandonati e lasciati scivolare. Giù. Sempre più giù. Lasciati scivolare. Ancora più in basso. Come una nave che cola a picco. Che scivola verso il fondo, verso il centro della terra. Mi sembra Fight Club, te lo ricordi? Sono una nave che cola piccola, lasciami stare. Ah, scusa. Non c'è limite di profondità. Stai esplorando i luoghi più bui e lontani. Degli abissi marini. Quel pinguino. Stai scendendo sempre di più verso il fondo di qualcosa che non ha fondo. Ma come faccio? Tutto intorno a te è liquido, buio e caldo. Si insinua con dolcezza all'interno delle tue orecchie. È una cosa sessuale. All'interno della tua bocca. Bocca. Ti circonda e ti riempie come un feto all'interno della sua placenta. E puoi finalmente dormire. È 2001 di sera nello spazio, lo so. Hai dormito 5 milioni di anni. Ok, sono d'accordo con te. Non è possibile, ma è così. Se non riesci a crederci, immagina. Sono passati 5 milioni di anni. Cos'è successo in tutto questo tempo? Che ne è della Terra? E soprattutto, cosa ne è stato della tua automobile e del tuo conto in banca? Dimenticalo. Dimentica la tua automobile. Dimentica il tuo conto in banca. Tutto scomparso. Io l'automobile l'ho sfasciata 4 giorni fa. Io ho un conto in banca un giorno. Bluastra, più simile a come ricordi le notti di luna piena che alla luce del sole, investe ora tutto. Il cielo, questo cielo, è tempestato di stelle, nessuna nuvola all'orizzonte. Una pioggia finissima scende senza tregua. Ti colpisce il volto, ma non ti bagna. Si raccoglie al suolo in enormi pozze giallastre. Blade Runner. Attorno a te non esiste più nulla che assomiglia ad una costruzione. Nulla che assomiglia ad una strada o ad una vettura, nulla che assomiglia ad un albero, niente imu, niente bollo, niente assicurazione. Cos'è questo rumore? Si direbbero mille bocche che masticano un chewing gum. Io te l'avevo detto, Fedra, te l'avevo gigante. Detto. Che ti si sente in radio vento quando fai le bolle. Vento caldo e discontinuo solleva una leggerissima polvere. Nessun animale, nessuna pianta. Solo queste immense pozze giallastre. Ma cos'è questa pioggerella che continua a caderti addosso? Ma perché giallastre? Fa un po' senso. Sì, ma... non so, ma... aspettiamo. Comunque tropici, qua. Siamo i tropici. Ma no, non c'è più niente. Però piove sempre. Ma non bagna. Ah no? No, no. Ah. Non l'avevo mica capita questa cosa. Non ti va. È una bizzarra sostanza gelatinosa, calda, capito. Stranamente piacevole al tatto. Anzi, il tuo corpo intero comincia a provare uno strano brivido di piacere. Non farmi il piedino, per favore. È il brivido di piacere. Se mi fai il piedino poi usciamo dall'ipnosi. Senti la sostanza gialla. immerso nel piacere, ti accorgi che ti è impossibile muoverti, impossibile spostarsi come un bipede o un quadrupede. Tutto il tuo corpo è ormai ricoperto da questa sostanza gelatinosa e tu ti abbandoni ad un lento valzer. Movimento di deriva. Ma tu lo guardi il concerto di Capodanno da Vienna? No. È bellissimo. Ma non danno più. Movimento vischioso, continuo, avviluppante. Devi guardare, è bellissimo. Hai l'impressione di non avere più alcun abito, di essere stato silenziosamente e delicatamente spogliato di ogni tuo rivestimento, di ogni tua protezione, di ogni tuo dubbio. Ti sembra di sentire alcune voci, voci che bisbigliano suoni incomprensibili e dolci, come una ninna nanna di benvenuto. Nudi nel 2016. L'anno dopo il miglior anno di sempre. Ti abbandoni lentamente al flusso comune, all'anonimità della non resistenza. E lentamente appartieni al flusso. Anzi, si direbbe che sia tu a dirigere questo flusso. Ma tu non esiste ormai più. Jodorowsky. Non sai spiegarti com'è accaduto, ma sai che questa sostanza giallastra è la vita sulla terra oggi. È la terra stessa. Sei tu e sono gli altri. Non esistono più frontiere. Tu e gli altri continuate a strisciare e a strusciare uno sull'altro, nutrendovi l'uno dell'altro, prendendo un immenso piacere da questo scambio morale. E sai anche che quando è giunto il momento, tutta la sostanza si trasforma, divenendo quasi fluorescente, e nuovi individui vedono la luce e apprendono subito a muoversi, a cibarsi e a riprodursi con e della sostanza stessa. Scimmie di mare, quelle che vendevano su Cronaca Vera negli anni 70. Scimmie di mare. Compra anche tu le scimmie di mare. È finita. Forse no. Bene. Quando questa trasmissione sarà terminata, ti rivestirai senza riflettere e mi raggiungerai qui in radio, dove festeggeremo insieme il tuo risveglio. Benvenuto. Benvenuto a Coxo Spaziale. E non dimenticare quegli ormai inutili biglietti colorati che una volta chiamavano euri. Paesaggi spaventosi. Oh là là, mi sento... Come ti senti, Max? Ma siamo in diretta, siamo tornati qua. Impossibile, siamo vero? Siamo tornati al Coxo. Di nuovo, però sembra no. Tutto diverso. Ma no? Io ero in una bozza giallognola fino a 2 secondi fa. Parte del tutto melmoso. No, non non voglio tornare, io voglio rimanere nudo. Infatti io sono tutta svestita. Mi sono nella sua stanza gelatinosa. Che era calda, ti riempiva. Sembra di stare all'Ikea. Ma poi a me sembrava di stare, hai presente quella parte di non Twin Peaks, di come si Bank un po', no, sì, quello di Fight Club, dove lui trova... Ma perché sei fissata con Fight Club? Perché c'avevo tutto, mentre si scivolava giù, c'avevo sempre quel cavolo di pinguino dell'animale guida che diceva scivola, scivola, scivola, e non riuscivo a pensare ad altro. Comunque è stata un'esperienza. Sì, particolarmente quando mi sono appoggiata su quella cosina calda che doveva essere la tua gota. E mentre mi facevi il piedino, intendi? No, ma quello lì era un parcheggio di piede. Però vedi, io sempre comunque sono abbastanza provata, mi devo un attimo riprendere, perciò forse vorrei avere dei feedback oppure ipnotizzatore. Perché l'hai fatto? Perché ci hai fatto questo? Come, perché avevo fatto questo? L'esperienza non vi ha... No, noi vogliamo sapere perché, perché? Perché ti è saltato in mente di venire qui a metterci così? In questo stato? La sera di Capodanno. Perché mi sembra che la radio possa proporre delle esperienze intime e sì, già ipnotiche un po' di per sé, e volevo cercare di accentuare un po' questa esperienza radiofonica proponendo una finzione, nel senso una cosa che non è realistica completamente, però che si allaccia in parte alla realtà. Insomma, se c'è un'ambizione, quella di arrivare a proporre attraverso la radio delle sensazioni anche per il pubblico. Mentre parlavo mi venivano in mente gli esperimenti di Andy Kaufman, che magari non tanti conoscono. No, io non lo conosco. È questo famoso comico che negli anni 80 utilizzò proprio lo strumento televisivo, lo strumento radiofonico, comunque il media che utilizzava, che fossero qualunque media fosse, per sfondarlo proprio, per utilizzarlo per comunicare non in maniera generica, ma non in maniera specifica, proprio per superare il media e appunto entrare dentro nella vita delle persone. Sì, per questo me è interessante. Per me forse non è tanto superare il medium, ma ad ogni modo superare quelle che sono le sensazioni che ho oggi ascoltando mediamente la radio, che mi sembra più un che faccia delle proposte di animazione, di divertimento, oppure culturali, ma ancora molto analitiche. Intimità in radio. Senza arrivare effettivamente a sfruttare al 100% quello che fa la radio, perché la radio è in casa tua, proprio ce l'hai di fianco, ce l'hai in macchina, ce l'hai sempre. Poi noi l'abbiamo ascoltata in cuffia. Stringi la tua radio. Che adesso molto spesso è streaming. Abbraccia la tua radio. Lasciati pervadere da queste onde. Lasciati penetrare wifi dalla tua radio. Allora io posso chiudere? Così? Dicendo una cosa bellissima che ho appena scoperto qua, che potrebbe andare a fagiolo. Aspettala un attimo. Allora, io ringrazio tantissimo Massimiliano Briaravara per essersi wzzato per il mese di dicembre. Grazie a voi. Ringrazio tantissimo Alessandro Franceschelli per essere tornato con le sue sperimentazioni radiofoniche a fare di questo programma un programma di ricerca. Ma di ricerca di che? Della felicità. Di qualcosa, di coccico. Cioè, gliel'abbiamo provato a chiedere che perché lo fai con l'ipnosi, lui ce la stava anche spiegando. E lo stesso vale per il coccio. Perché lo faccio? Cioè, ma effettivamente perché? Allora, fammi finire. Ah, sì. Fammi finire. Sai cosa diceva Pina Bausch, questa grande coreografa, danzatrice, artista del Novecento? Qualcosina so. Sai cosa diceva? Qualcosina? No. No. Non lo sai, allora te lo dico io. No. Sono ipnotizzata, sì. Diceva questa cosa che io vorrei dire così come augurio per fare questo passaggio. Guarda, dal 2015 al 2016. Mi vengono gli occhiali tutti quanti. Capito? Brillantoni. Capito? Diceva dance, otherwise we are lost. Cioè, balliamo, altrimenti siamo perduti. E perciò chiudiamo con, sempre con Stromae, che canta Alors on Dance,